Italians. Italienne. Italianas. Italienische. Italianes. Italvi. Italiago. Con la valigia. Buongiorno. Buon pomeriggio. Buonanotte. Scusami. Ben ritrovate. Italiane con la valigia, nuova puntata. Oggi torniamo al freddo. Oggi andiamo a mettere la nostra polaire, il nostro cappottino, perché torniamo in Canada. Magic Canada, ricordi. Bellissimo posto. Andiamo, parliamo con Laura perché Laura ha fatto l'intervista con me, perché so che tu, Maddalena, in quel momento eri in altre faccende affaccendata, esatto. Quindi non eri con noi. Altre faccende affaccendata. Però sei stata con me quando abbiamo fatto appunto la puntata sul Quebec, e invece questa volta ci ritroviamo nel côté anglosassone. Quindi Valeria ci ha contattato, questo è molto importante, ci ha scritto sulla nostra pagina Facebook proponendosi appunto per essere intervistata, e quindi sentirete da lei quante cose interessanti ci racconterà. Però la nostra esperta del Canada, senza offesa Maddalena, che tu sei esperta del Quebec, è olè. chi altri se non lei. Che ti lamenti sempre, hai due esperte. Ma non è vero, quando mi lamento, scusa, dire, tutte le città dove siamo state, c'è cioè una di noi due, c'è stata. Non è quindi vero. Sì, tranne New York, purtroppo New York lì è... però è un segno del destino, ci dobbiamo andare, esatto. Tutte e tre, esatto, insieme. Sì. È vero, è allora vero. Vai Laura, vai raccontaci com'è la vita del British. Io ho abitato a Vancouver, intanto istantanea, te è un'istantanea, sono tutti fuori di mela, sono tutti fuori come canadesi. Come dei balconi, sì. In italiano si dice fuori come dei balconi. Fuori come una canadese, che tra l'altro è la famosa tenda. Esatto, vero, anni vero, 80, vedi? Anni 70, c'è 80. Sì, c'è, sì, no, sicuro. Perché sono tutti, comunque hanno delle personalità assolutamente bizzarre. Comunque ti sei sentita a casa, diciamo. Sì, assolutamente. C'è una vita incredibile, ci sono un sacco di cose da fare, concerti, parchi. Ma io la pioggia proprio. E il clima. Un po' grigio. Sì, quello. Io sono arrivata ad agosto, 15 giorni di sole, un tempo della Madonna, mare, birra, fantastico. A metà concerto inizia un po' a piovere, non viene giù più il mondo, da lì non ha mai più smesso per mesi. Per no. Infatti quando pioveva, appena è iniziato a piovere, mi hanno detto welcome to Vancouver. Chissà cosa vorranno dire. E welcome, ho capito che effettivamente era la pioggia, la famosa pioggia di Vancouver. La famosa pioggia di Vancouver. Ma noi oggi non andremo a Vancouver e andremo a sentire la nostra Valeria che ci racconterà tutto. Ciao Valeria, benvenuta. Ciao Valeria. Ciao, grazie mille per avermi chiamato. E benvenuta Italiane con la valigia. Un piacere. Presentati un pochino, chi sei, dove abiti e come mai ti trovi in questo paese meraviglioso. La mia avventura è iniziata nel 2007, partivo da Milano. Bene. Con un bellissimo lavoro, mi occupavo di marketing e comunicazione e ho deciso di seguire il tuo compagno. Che te pareva, no? Vengono sempre a distrarci questi uomini. Alla fine poi ne valsa la pena, devo comunque ringraziarlo per questa esperienza. Da Milano siamo volati negli Stati Uniti, in Texas, e poi ci siamo spostati dopo 3 anni in Canada. Come mai siete finiti in Texas? Diciamo, c'è stata un'offerta di lavoro per tuo marito, per te? Mio marito lavora in una società in realtà francese con sede a Milano, che aveva una opportunità di esperienza all'estero a Houston in quel periodo. Così abbiamo deciso di affrontare questa avventura. Dopo un anno ci siamo sposati alle Hawaii. Bello, da sogno. In una spiaggia. Sì, in realtà in mezzo al mare, doveva essere in una grotta, noi siamo tipi un po' particolari, più che altro abbiamo fatto una scelta non potendo avere tutti i parenti. Da soli. Non volendo rientrare in Italia e incappare in uno dei matrimoni italiani. Brava, anch'io l'ho fatto, numero solo uno. Che mi hanno seguito in 40. Siamo sposati a Maui con un reverendo e un fotografo che ci faceva da testimone in mezzo al mare. Sono arrivate delle balene, ma questa è tutta un'altra storia. Fighissimo, no, è fighissimo, parliamone. Madonna, cioè, da film. Sì. Poi da lì ci siamo spostati in Canada, dove ho avuto i miei due bambini. Da mamma manager sono diventata mamma casalinga 24 ore su 24. Ma quindi, insomma, come è andata la cosa? Siete stati quanto in Texas? Un anno, mi avevi detto? Siamo alla fine rimasti 3 anni. E dopodiché, 3 anni in cui avete fatto, diciamo, la coppia romantica, e poi Canada, pum, arrivano i figli nel gelo. Il mio primo figlio, che è nato a fine agosto, non ha visto la luce fino in realtà a maggio, quindi giravamo in passeggino, ma lui era completamente ricoperto, però è stato abbastanza difficile. Qua, quando si parla di temperature, è meno 30, siamo arrivati con il vento a meno 41. Ma scusa, quindi quando tu torni a Milano ti metti in costume? Sì, sì, subito. Praticamente. Beh, comunque è vero, perché sì. io anche ho vissuto in Canada, quando sono tornata giravo in maniche corte a dicembre, sì, perché sì. È vero, sei temperato diversamente. Mia sorella e anche le due figlie dice: ma i tuoi non usano la canottiera? No. È vero, io lo capisco questa cosa, anche se sono tornata a canottiera, ora, cioè oggi ci sono 30 gradi, ho il piumino e il maglione di cashmere, però perché poi ti ritempri immediatamente sull'altro. Io sento Valeria che ride dietro, dice per piacere. Ma io ci ho provato a vestirmi come le francesi, perché le francesi non mettono la giacca. Ho detto: ma scusa, ma com'è possibile? Non la mettono la giacca. L'ho fatto io, ho preso la febbre a 40 il giorno dopo. No, devo dire che il primo anno, quando il 4 maggio, me lo ricorderò sempre, è arrivata di nuovo una nevicata da oltre un metro, ho detto: ma io che amavo tanto la neve, forse. Però a parte questo, il Canada è tutto quello che si conosce, quindi grandi parchi, ci sono veramente gli orsi, ci sono le alci, c'è questa natura incontaminata che lo rendono molto molto bello e piacevole. E anche molto spirituale, vero, il Canada? Comunque trasmette una spiritualità molto forte, ho trovato. Sì, sicuramente. Poi il mio passaggio dalla parte ovest, quando ci siamo spostati qua vicino a Toronto, Toronto sì. È molto molto internazionale, il 36% della popolazione non è canadese. Addirittura una cosa che mi ha sempre sorpreso, il numero qua di emergenza, come un po' negli Stati Uniti è sempre il 911, è settato su 150 lingue. E quindi puoi tranquillamente chiamare, parlare italiano, esatto. Esporre i tuoi problemi. Dai vostri racconti mi sembra un paese che sa dare molto ai propri cittadini, però c'è un però, hanno cambiato ancora le leggi per i visti, giusto? Sì, sapevo, vabbè, io sono legata al visto di mio marito, quindi per noi la situazione è un po' diversa, però mentre un tempo il Canada accoglieva in un certo senso in maniera molto più facile rispetto agli Stati Uniti, adesso, proprio perché l'immigrazione anche qui ha dei tassi molto elevati, stanno un po' chiudendo le frontiere. Comunque la mia esperienza è assolutamente positiva. Secondo me l'importante è sempre tentare di restare più aperti possibili. Già, mi fa sempre sorridere quando si parla magari con gli amici italiani: ah, come fai senza il parmigiano, la mozzarella? Insomma, riesci a sopravvivere anche senza il parmigiano, esatto. La mozzarella. È doppiamente eroica, sì, sotto metri di neve. Stati Uniti, Canada, poi cambiare città, amicizie. Tu come hai fatto a ritrovarti? Nella mia esperienza, ma secondo me in tante lo condividono, che ci vogliono all'incirca 3 anni per avere un po' le radici, perché il primo anno è di totale sgomento, non sai neanche dove andare a fare la spesa, e il secondo anno inizi a avere magari un paio di amicizie locali che ti fanno vedere la vita in maniera diversa, e il terzo anno ti senti meglio. Per l'esperienza lavorativa di mio marito, noi di solito dopo 3 anni ce ne dobbiamo andare. Benissimo. Ecco. Quindi tutto a posto, finalmente inseriti, ciao, vi salutiamo. Sì, quando sento che si sta per avvicinare questo momento, dico: ah, ok, però adesso lo so, e quindi tutte le volte sono molto meno spaventata quando si ricomincia da zero. So che poi c'è sempre la luce alla fine del tunnel, arriva. Ti senti che vivi un po' meno intensamente durante quei 3 anni perché sai che te ne andrai? No, perché comunque non è un contratto, ma senza mai una data di fine. Quindi sono 3 anni che adesso abbiamo imparato sulla nostra pelle. Sono 3 anni, ma ogni volta può essere uno in più o uno in meno, non si sa, ci chiederanno di restare. Quindi io per ora, per la mia sanità mentale, per quella della mia famiglia, noi viviamo al massimo. Come se si dovesse stare qua sempre e poi vedremo. Guarda, questo è importantissimo, importantissimo. Conosco un paio di ragazze che vivono qua più o meno da 7 anni ormai e ancora pensano che se ne andranno fra un mese e non si sono integrate assolutamente, né non dal punto di vista lì, esatto. Né dal punto di vista linguistico, né dal punto di vista affettivo, in nessun modo e maniera. E questa roba qui mi ha veramente scioccato. Guarda, poi recentemente, proprio quest'anno, mi è successa una cosa incredibile. Avevo lasciato a scuola i bambini, stavo guidando il mio minivan. Inaspettatamente i freni non hanno più funzionato, si è incendiata la macchina e io sono dovuta uscire. Oddio. È andato tutto benissimo, sto benissimo. La macchina è completamente bruciata e dopo 3 minuti è esplosa. Come hai fatto? Sì, è stato veramente fortuna, perché, perché è arrivata subito anche la polizia e i pompieri, pensavano la macchina non si sarebbe fermata. Quindi comunque quando ho aperto la porta, questa scena proprio da film, con il poliziotto che mi ha detto adesso run, run. È un miracolo anche quello, insomma. Non sai mai quando la vita finisce, quindi bisogna vivere al massimo ovunque si sia, anche se la tua famiglia è a Milano e ti piange il cuore perdere i compleanni, i natali. Hai ragione. Non importa. Ed è tutta una scoperta, è una bellissima avventura dovunque si sia. Hai ragione, essere nel presente, vivere nel presente è veramente la chiave per essere felici. Sì, con molto coraggio, perché quando succedono queste situazioni, prontezza di spirito e anche esperienza, insomma, tutti questi viaggi ti hanno insegnato sicuramente avere molta adattabilità. Ho scoperto che sinceramente la visione da telefilm dei vicini che ti portano la torta e ti augurano ben arrivato è leggermente falsa. Spiega bene, allora niente torta, niente cestino di frutta, niente. Come funziona? Rizzo, sicuramente, ah ciao come stai? E tu dici, ah fantastico, ho trovato la mia migliore amica, e poi non li rivedi più. Questa cosa in Canada l'ho patita molto, però, perché l'ho trovata molto accentuata. È stata una cosa che mi ha portato in depressione. Anch'io pensavo di aver trovato un sacco di amici, gente che mi sorrideva, mi fermava per la strada, ma appena accennavo a dire effettivamente come mi sentivo, sparivano all'improvviso, dovevano andare, non chiamavano. Come la vivi tu? Perché a me mi ha traumatizzato. Sì, io ero già stata abbastanza traumatizzata comunque negli Stati Uniti. È tutta una questione proprio di cultura diversa. Per esempio, io ho capito che non si poteva invitare una mamma con un bambino a casa propria a giocare, come pensavo, perché questa è un'invasione della loro privacy. Prima devi come minimo fare questi play date in alcuni parchi o in alcuni posti al chiuso, ma essere invitati a casa di qualcuno è qualcosa che loro accettano solo dopo mesi e mesi di conoscenza. Cosa che per me era del tutto strana, perché dici, anzi, mi sembrava di essere ospitale, e ho capito che questo però li spaventava. Quindi adesso ho tutte le mie tecniche, quindi ci vediamo al parco, poi settiamo un paio di altri incontri in luoghi pubblici e poi li invito. Però io a casa di canadesi in 6 anni sarò stata 10 volte. Quello che hai appena descritto, più che un approccio genitori, figli e parenti di amici, mi sembra un approccio amoroso quasi, no? Hanno un po' questi schemi. Baciarsi, toccarsi in maniera amichevole così, qua ti guardano come se fosse... Ormai io e mio marito a volte ridiamo perché ci rendiamo conto di aver perso tutta quella gestualità italiana, il muovere le mani. A proposito di italiani, ma siete gli unici della vostra zona o hai incontrato qualcun altro? Nonostante altro? Toronto abbia una grossissima comunità di italiani, qui a Mississauga ce ne sono di meno. E poi anche qua è una scelta personale, noi non cerchiamo poi troppo gli italiani, perché abbiamo notato che comunque, mentre è più facile avere amici espatriati, quindi sicuramente abbiamo una cari amici argentini o che arrivano da altre parti del mondo, gli italiani poi a volte tendono a fare un po' troppo ghetto. In maniera buona, quando c'è la possibilità di incontrare qualcuno aperto come noi o con cui poter scambiare idee, molto volentieri, però appunto se si tratta di doversi solo trovare per parlare del parmigiano, sempre per quel presupposto che bisogna rimanere aperti. E quindi quando poi si espatria, appunto si incomincia a fare esercizio di apertura mentale e di rispetto. Le loro idee, perché quello che manca a volte in Italia, secondo me, è comunque un po' troppo il voler giudicare cose che non si conoscono, e alla fine questo non va troppo bene. Mi piacerebbe parlare un po' delle cose da fare in Canada, assolutamente da non perdere. Ma qui a Toronto non ci sono montagne come le intendiamo noi, come le montagne che ci sono in British Columbia o raggiungibili da Vancouver facilmente. Ci sono però bellissimi parchi, quindi chi è innamorato di campeggio di sicuro può fare un giro in canoa, andare a pescare, vedere finalmente i salmoni che risalgono le cascate, tanta natura e alcune bellissime città, perché indubbiamente Toronto, Montreal, Ottawa, Quebec City sono città molto internazionali. La vita in Canada è una vita healthy comunque, proprio perché appunto si sta sempre all'aria aperta, si fanno sempre attività outdoor. Sì, soprattutto si approfitta tantissimo della stagione estiva, perché c'è bisogno di ricaricarsi dopo l'inverno un po' intrappolati, però è bellissimo anche durante l'inverno andare a vedere le costruzioni di ghiaccio, cioè anche l'inverno loro lo vivono giustamente pienamente. Senti, ma la tua vita da casalinga come procede? Nel senso, tu eri una manager, adesso sei a casa al freddo con due bambini, tornerai al lavoro, come sei organizzata? È stato abbastanza difficile ricostruirsi un po' una nuova identità, perché quella della mamma, diciamo che non era il mio sogno di carriera. Mentre ero a Houston avevo iniziato a insegnare italiano a cantanti d'opera, quindi mi ero completamente reinventata. Poi mi sono imbattuta nella produzione di cantucci senesi. Ma va, addirittura. In questo momento ho fatto un corso per ginnastica e per le mamme con i bambini piccoli, il passeggino da fare indoor. Sì. Sto tentando di reinventarmi un po'. Nel frattempo lascio i bambini crescere e tento di capire qualcosa del nostro futuro. La vita avrà un altro cambiamento anche per me, che sia lavorativo o meno, vedremo. Mi hai dato una bella energia comunque. Sì, veramente. Sì, assolutamente positività, hai ragione. E noi ti auguriamo di riuscire nei tuoi progetti, qualunque essi siano. Anche quelli cui non hai ancora pensato, vai e buttati. Grazie mille, grazie a voi per questa bella opportunità. Grazie, grazie. Valeria, in bocca al lupo. Ciao. Fate Valeria, uno spirito veramente incredibile nonostante la neve. Sì. Il freddo e poi anche questa voglia comunque di mettersi sempre in gioco, di integrarsi perché poi ci ha raccontato di quante attività ha messo in piedi nelle sue peregrinazioni in giro per il mondo, ha sempre cercato di trovare un'attività complementare a quella del marito. Pazzesco. Molto nonostante importante. Avesse un lavoro che le piaceva, certo. E la soddisfaceva in Italia, ecco appunto questo sacrificio fra virgolette che facciamo quando seguiamo i nostri mariti, qualcuno ci riesce e lo fa benissimo, specialmente soprattutto da sola dall'altra parte del mondo, senza aiuti, senza conoscere magari la lingua, senza conoscere persone, amici, è veramente difficile. Io supporto tutte le mamme all'estero. Le avete messe in contatto con Mamme con Gelo? Lo faremo, perché no? Vi salutiamo, appuntamento settimana prossima. Buongiorno, buon pomeriggio e buonanotte.